posto, sottoposto ogni giudizio. Sto al mio posto a costo di perdere spazio. E so che il mio giudice non vive sulla terra. Per lui conta poco se gli dono incenso mi requa. Molti giudicano senza presupposti e stimano la noia che voi al pettegolezzo, ma non capiscono che sono corrisposti le stigatori che vogliono il proprio pezzo. C'è chi ci giudica solo per l'apparenza e mette una sentenza pure per la convivenza. A me il professore mi diceva che ero matto perché disegnavo pupazzetti sopra il banco, perché mi sentivo sempre quello meno adatto, o perché parlavo con il mio compagno a fianco. Se rincontro per la strada un poliziotto, mi ferma perché pensa con lo sguardo di uno fatto. Totalmente netto il pregiudizio che mi porta, e se non mi ferma mi guarda con l'aria storta. Qui molti giudici con giudizi sbagliati ti invogliano a colpire ma senza fare il processo. Tutti condannati ma senza reati, da chi sbaglia spesso adesso fa senza permesso. Ed io per il mio, ma come unico giudice. Ed io per il mio, ma come unico giudice. Ed io sto nel mio, perché non sono un complice. Ed io sto nel mio, perché non sono un complice. Ed io per il mio, ma come unico giudice. Ed io per il mio, ma come unico giudice. Ed io sto nel mio, perché non sono un complice. Ed io sto nel mio, perché non sono un complice. Mi chiedo come fanno a giudicare i miei ideali se nemmeno li conoscono, ignorano i nostri mali come disoccupazione, mancanza di formazione. Dentro questa nazione ci vorrebbero tutti uguali, vali per quello che sei, non per quello che c'hai. Chi ti giudica lo fa soltanto per quello che fai. A me il mio capo mi giudica un comunista solo perché non accetto la sua idea fascista. Ma non sono di destra e nemmeno di sinistra, non mi rappresenta questa casta qualunquista che ci vorrebbe tutti quanti sottomessi, messi sempre male, camuffando la realtà, perché si nascondono dietro dei crocifissi. Ma fissi stanno pure a rinnegare la Shoah. Mi promettono il lavoro ma con il voto di scambio, e mi giudicano un terrorista se protesti in piazza. Ma i loro giudizi valgono meno del piombo, e ciò che per me conta è farmi solamente forze. Chi si dovrebbe fare esami di coscienza adesso non ci pensa e governa con l'ingiustizia. E sì, qui ci spingono solo a fare violenze, subiamo il giudizio di chi invece tiene la grazia. Ed io